buongiorno è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Colazione per modo di dire, tutto in fretta bisogna partire. Ci aspetta già un'altra città, l'auto ci attende pulita e la comunità.